Rispetto alla promozione di opera pubblica, che come abbiamo visto è una serie di disposizioni di dubbia linearità, il corpus che riguarda invece il project financing propriamente detto ha senz'altro il merito della linearità e della omogeneità. Con una sentenza che per puro caso riguardava una mia fattispecie, normalmente non produco mie sentenze, ma in questo caso ero partito dalla massima, il Consiglio di Stato ha sottolineato l'aspetto finanziario dell'istituto del project financing. La sentenza numero 6, a pagina 10, è molto chiara. Ecco, grazie. Nel frattempo è stata fotocopiata integralmente la sentenza numero 10, in modo che possiamo se la dà, se ce n'è una copia anche per me, per favore. Dicevo, pagina 10 di questa sentenza numero 6 si dice propriamente che l'istituto del project financing è una tecnica finanziaria che da una parte consente la realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione, dall'altra si sostanzia in un'operazione economico-finanziaria idonea ad assicurare utili che consentano il rimborso del prestito e o finanziamento e la gestione proficua dell'attività. Questa è la corretta definizione dell'istituto dei project financing. Come vedete, nulla a che vedere con la promozione di opera pubblica e propriamente definita invece. Una tecnica finanziaria che consente il reperimento delle risorse al fine di realizzare, se applicato ovviamente al pubblico, altrimenti si muta la definizione, ma se applicata al pubblico è al fine di realizzare opere pubbliche senza oneri per la pubblica amministrazione. Se questo è il project financing, quindi una tecnica finanziaria che ha un aspetto economico e un aspetto giuridico che prescinde però per molti profili dall'opera pubblica, ben si comprende come le norme che lo riguardano, intanto concerneranno alcuni aspetti, non quelli economici ma quelli giuridici, e poi saranno mutuate da istituti non propriamente pubblicistici, ma si preoccuperanno piuttosto di rendere adattabili alla fattispecie pubblica a monte, che è necessariamente una concessione di costruzione e gestione, proposta dal privato o no, è del tutto irrilevante, questi istituti di carattere generale e privatistico. Il nocciolo fondamentale del project financing è composto da due elementi che sono, per un verso, la non responsabilità dei soggetti impegnati nell'operazione oltre i finanziamenti sostenuti, e per altro verso, adesso spiego, per altro verso la possibilità per i finanziatori di intervenire qualora il gestore sia in difficoltà. Quindi, diciamo in senso più lato, le tutele per i finanziatori. Il primo elemento di questo duplice nucleo dell'istituto del project financing è rappresentato dalla società di progetto. La società di progetto è quell'istituto giuridico autonomo che può essere costituito e di regola è costituito per la gestione unitaria della realizzazione e dell'esecuzione dell'opera. e consente di limitare la responsabilità dei soggetti finanziatori alle quote della società di progetto. La società di progetto è disciplinata per la prima volta dall'articolo 37 quinquies. In passato l'ordinamento contemplava un'ipotesi di una società, che era la società anche consortile, che le ATI potevano costituire per la gestione unitaria dell'appalto o della concessione. Peraltro in quel caso il regime delle responsabilità non mutava, perché la società anche consortile diventava un unico centro di imputazione, ma poi le società in ATI restavano solidalmente responsabili dell'esecuzione dell'appalto. Invece in questo caso la società di progetto sostituisce, subentra nel rapporto di concessione con una conseguenza stabilita dall'articolo 37 quinquies comma 1.3 ter, in base al quale la società di progetto diventa a titolo originario concessionaria e sostituisce l'aggiudicatario, che potrà essere soggetto individuale o ATI, in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. I soci di questa società di progetto, non dimentichiamo che qua stiamo parlando di una concessione e quindi di una situazione nella quale, a differenza dell'appalto, il rischio finanziario non grava sull'amministrazione ma grava sul concessionario, quindi i soci sono responsabili solidalmente solo qualora l'amministrazione versi un contributo e nei limiti di questo contributo versato. Se ad esempio l'amministrazione versa un contributo alla fine del rapporto, i soci non sono responsabili, o alla fine dell'esecuzione dell'opera i soci saranno responsabili in modo assolutamente esiguo, per non dire nullo, perché alla fine dell'esecuzione dell'opera ormai il finanziamento è stato sostenuto e l'opera è stata realizzata, per cui non vi è più una responsabilità nei confronti della committenza. Se invece vi è un contributo in corso d'opera, allora vi potrà essere una responsabilità solidale dei soci, ma limitata a quel contributo. Per tutto il resto la società di progetto rimane un soggetto completamente autonomo, che sarà l'unico centro titolare di tutti i rapporti nei confronti della stazione committente. Questo consente al concessionario o all'ATI che si è aggiudicata la concessione di limitare fortemente i rischi dell'iniziativa. Ovviamente non sarà un SRL da 10.000 euro, perché sarà il bando che può addirittura prevedere che la società di progetto sia un obbligo per l'aggiudicatario. Dicevo, sarà il bando a contemplare i requisiti della società di progetto, compreso il capitale minimo di dotazione, perché evidentemente se vi è l'esigenza di limitare i rischi per il concessionario, dall'altro lato c'è l'esigenza della pubblica amministrazione di assicurarsi che comunque vi sia un rischio adeguato che viene preso e quindi delle adeguate risorse economico-finanziarie che vengono poste a disposizione per l'esecuzione dell'opera e poi per la gestione. Questa unitarietà della società di progetto ha una deroga rappresentata dalla possibilità della società di progetto di far eseguire i lavori ai soci. In questo caso, nonostante si dica che la società di progetto svolge per titolo originario, viene comunque mantenuto il rapporto che ha dato modo di nascere la società di progetto, per cui si afferma che i lavori si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente ai soci della società di progetto, ben inteso sempre che i soci siano in possesso dei requisiti adeguati per l'esecuzione delle opere. In caso la società di progetto sia costituita da un ATI che si è aggiudicata la concessione, gli aderenti all'atto dovranno indicare al termine d'offerta le quote di partecipazione alla società. Il problema della società di progetto riguarda l'andamento successivo della vicenda societaria, cioè cosa succede alla società dopo la costituzione. Per un certo tempo è stato chi ha sostenuto che la società di progetto fosse immodificabile, almeno nel periodo di esecuzione dei lavori, salva la possibilità di nuovi aderenti alla società di progetto, ma come meri finanziatori, in ciò trovando sponda nell'articolo 37 sexies che riguarda il reperimento delle risorse da parte della società di progetto, addirittura con emissione di obbligazioni, per cui si diceva vi è la possibilità di finanziatori di intromettersi nella vicenda societaria, non però di analoga possibilità per i soci di sottrarsi, di uscire dalla società di progetto e di soci non meri finanziatori di entrare. Questa impostazione, sempre al fine, nell'ottica di consentire un maggior sviluppo possibile degli istituti di finanza di progetto, come sono questi, e questi lo sono davvero, è stata mitigata dall'ultima novella della Merloni nel 2002, con la previsione esplicita che il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto. Quindi il contratto di concessione è il documento posto già a base di gara, è tra i documenti a base di gara per la concessione, l'affidamento della concessione. Quindi non solo gli atti di gara prevedono la costituzione della società di progetto, ma devono prevedere anche le modalità di, intanto la possibilità e poi la modalità di cessione delle quote della società di progetto, che è, ripeto, soggetto che subentra a titolo originario nella costruzione e gestione del bene. Aggiunge la norma, e quindi qua si pone il problema della partecipazione dei soci alla fase realizzativa, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti suddetti, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Cosa significa? Significa che nella società di progetto possono sì mutare le condizioni, ma i soci che hanno contribuito in atti al raggiungimento dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara devono rimanere nella compagine societaria fino alla emissione del certificato di collaudo, quindi fino alla ultimazione dell'opera. In sostanza la società di progetto ha un'autonomia assoluta rispetto ai soci per quello che riguarda la gestione dell'opera una volta realizzata. La preoccupazione del legislatore è che comunque l'opera sia realizzata da soggetti che hanno partecipato alla gara. Quello che succede dopo, agli occhi del legislatore, è di minore importanza, che appare apparentemente singolare, in parte singolare, se si considera che il concessionario potrebbe essere un soggetto che non realizza l'opera, ma ha semplicemente requisiti di gestione che riguardano appunto la gestione dell'opera, quindi la fase dopo la realizzazione. Però evidentemente il legislatore ritiene che l'ente pubblico abbia la forza di intervenire in sede di gestione dell'opera, eventualmente con una revoca, mentre non abbia uguale forza per assicurarsi che l'opera sia eseguita con l'investimento iniziale, con le capacità dei soggetti che se la sono aggiudicata. si badi, i soci garantiscono il buon adempimento degli obblighi del concessionario solo nei limiti in cui, appunto nei limiti di cui sopra, che sono quelli del contributo offerto dall'ente pubblico all'esecuzione dell'opera. Se non v'è contributo, se il contributo è in un momento successivo, i soci non hanno nessun obbligo di buon andamento della società. In ogni caso, l'ingresso nel capitale sociale da parte di banche e altri investitori che non hanno contribuito ai requisiti di partecipazione è possibile in qualsiasi momento. Per cui si dice, l'ingresso di investitori e l'uscita degli investitori è sempre possibile. L'ingresso di nuovi soci e l'uscita dei soci di esecuzione è possibile purché questo non intacchi i requisiti minimi di ammissione alla procedura. Aggiungo un corollario, che la disposizione sulla possibilità di far eseguire i lavori ai soci, di cui l'articolo 37 quinquies comma 1 bis, deve intendersi, a mio avviso, limitata ai soci che hanno partecipato alla gara, come affidamento diretto. Per cui la società di progetto può affidare direttamente, quindi far eseguire in proprio questi lavori solo ai soci che hanno partecipato alla gara. Può affidarlo ad altri soci che non hanno partecipato alla gara, ma nei limiti in cui questo è possibile nei confronti di soggetti terzi, e quindi, ad esempio, se nella gara era previsto che la società di progetto affidasse a terzi il 30% dei lavori, questi terzi, pur diventati soci, contribuiranno nel rispetto dei requisiti di qualificazione e di trasparenza che questo comporta. Abbiamo già letto l'articolo 37 septies, perché è un articolo fondamentale che riguarda le concessioni. È inserito qui perché è nel pacchetto delle garanzie dei soci finanziatori o dei finanziatori in genere. Quindi, per quanto non sia una norma espressamente relativa al project financing, perché riguarda tutte le concessioni di lavori e di servizi pubblici, però è una norma che è inserita in questa parte, 35, 15 e seguenti, per la tutela dei finanziatori. Così come sono a tutela dei finanziatori le ulteriori due norme sul subentro e sul privilegio dei crediti. In particolare è significativa quella sul subentro. È consentito ai finanziatori intervenire sul soggetto realizzatore o gestore dell'opera, qualora questo si renda inadempiente, proponendo all'ente pubblico di sostituirlo con un altro soggetto che sia in possesso di adeguati requisiti. In linea teorica lo scenario è il seguente. Banca finanzia l'opera realizzata da impresa. L'impresa entra in crisi, l'amministrazione vuole risolvere il contratto con impresa, contratto di concessione. Banca si rivolge ad amministrazione dicendo fermati, non risolvere, sostituisco impresa con compagnia, con un'altra impresa, la quale al posto di impresa che è entrata in crisi realizza l'intervento e lo gestisce. Questo è il quadro teorico. Rispetto a questo quadro teorico vi sono alcune complicazioni. La prima è che questa norma trascura il dettaglio che i finanziatori non sono normalmente noti alla stazione committente. Non v'è nessuna disposizione che obblighi le banche finanziatrici a comunicare la propria esistenza alla stazione appaltante, ovvero l'esecutore a comunicare alla stazione appaltante che vi sono dei finanziatori. Per questo è questa norma può presentare dei problemi applicativi, perché gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente l'intenzione di risolvere il rapporto, presuppone che il concedente sappia che c'è un ente finanziatore a cui indirizzare la comunicazione scritta. Ma se questo finanziatore non è noto, questa clausola non può operare. La seconda circostanza, che non è chiarissima e va valutata, è connessa alla lettera B, cioè abbiamo detto le condizioni, la prima è che evidentemente il soggetto designato come subentratore abbia i requisiti per poter subentrare. La seconda è che, secondo la norma, l'inadempimento del concessionario cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine qui al precedente comma. Ora, evidentemente l'inadempimento del concessionario non cessa, nel senso che il concessionario viene sostituito, quindi chi subentra pone rimedio all'inadempimento del precedente dei concessionari. Ma l'aspetto da chiarire è che evidentemente qui c'è un inadempimento che ha richiesto l'intervento di mancato rispetto dei termini. Ipotizziamo l'opera in ritardo di 6 mesi rispetto all'esecuzione. Non si può pensare che il subentrante recuperi 6 mesi. Questo significherebbe far cessare l'inadempimento del concessionario. Se vogliamo rendere praticabile la disposizione, dobbiamo affiancarla ad una implicita disposizione che ammetta il finanziatore a proporre un subentrante con fissazione di nuovi termini per l'esecuzione, in modo da rendere possibile, che evidentemente non sarebbe altrimenti concepibile un subentro su una situazione così patologica da comportare una risoluzione e che ponga immediatamente termine all'inadempimento così grave. Inutile dire che con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni, ma non è mai intervenuto nessun decreto a fissare i termini, per cui sì, questi due aspetti di incertezza sono tuttora irrisolti perché mai trattati da nessun decreto. L'ultima, non in ordine importante, in ordine di esposizione, cautela e garanzia posta a favore dei finanziatori, badate, qualsiasi concessione, perché se leggiamo l'articolo 37-8, in tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio, non è promozione dell'opera pubblica, non è grandi infrastrutture, è qualsiasi rapporto concessorio. Tanto che si pone anche la questione se questa norma si applichi o no alle concessioni di mero pubblico servizio. Poi di solito nelle concessioni di pubblico servizio non vi è un finanziamento significativo e imponente, però si pone anche questa questione. L'articolo 37 nonies è ancora più esplicito. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione dei lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario, ai sensi articoli 2745 e seguenti. Privilegio generale sui beni mobili. Addirittura questo privilegio sui beni mobili, che comporta talvolta difficoltà operative, fermo l'obbligo di trascrizione, che però riguarda beni mobili che non necessariamente sono, fanno parte di beni per cui la trascrizione è necessaria, per cui ci sono seri problemi operativi su questo, però è opponibile anche ai terzi che hanno acquistato diritti sui beni. Se non, questo non è possibile, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. Devo dire che questa norma è quasi inapplicata. Si pone un problema di compatibilità di questa disposizione con una norma che riguarda viceversa il settore bancario e creditizio, che prevede la possibilità di garanzia sui beni mobili che compongono l'opera, una forma un po' equivoca, da cui per un certo periodo si è fatto dedurre la possibilità di iscrivere ipoteca su beni pubblici, quali sono le concessioni. La questione dell'ipoteca in forza di quella disposizione è tuttora oggetto di dibattito. Vi è chi sostiene che non può essere apposta ipoteca su beni pubblici. Vi è chi sostiene che in realtà l'ipoteca sia una forma di formalizzazione del subentro nei diritti e quindi non riguardi tanto il bene, ma la gestione del bene, quindi la concessione. Si oppone che la concessione non è un diritto reale e quindi non può essere oggetto di ipoteca. Ritengo che questo quadro di norme, proprio perché compongono un corpus, abbiano superato quella disposizione e quindi che oggi non sia effettivamente possibile parlare di ipoteca su beni pubblici. Vero è che c'è una sentenza che ammette la cessione dei diritti su un parcheggio pubblico in concessione. Però appunto si parla di cessione dei diritti e quindi non di diritti reali suscettibili di ipoteca. La società di progetto è poi contemplata anche nella normativa sulle grandi opere con modalità ancora più di maggiore autonomia rispetto alla società di progetto ordinaria, ma sostanzialmente sovrapponibili. Vi chiedo scusa, ho trascurato di soffermarmi prima di citare la società di progetto nelle grandi opere sul promotore nelle grandi opere. L'articolo 8 del decreto legislativo 190 del 2002, nel richiamare gli articoli che abbiamo visto sulla promozione di opera pubblica, attribuisce al Ministero delle Infrastrutture il compito di pubblicare l'elenco delle opere che devono poi diventare oggetto di proposta. E stabilisce poi una serie di termini che sono normalmente più rapidi e soprattutto stabilisce che il promotore ha decisi poteri di partecipazione nelle procedure accelerate di approvazione delle grandi opere di cui è questo normativo. Per quanto riguarda la società di progetto, una particolarità introdotta dall'ultima modifica col decreto legislativo 2005 nelle grandi opere è la società pubblica di progetto. La società pubblica di progetto è in realtà un ente che ha il compito di portare avanti l'iniziativa, quindi non tanto l'esecuzione dell'opera, quanto curarne tutti gli aspetti di, sia amministrativi che di affidamento, e comunque è consentito che questa società pubblica di progetto, attraverso l'acquisizione di partenariato pubblico-privato e di l'adesione di finanziatori, sia poi realizzatrice dell'opera. Con questo avrei esaurito anche il project financing. Vi sono due istituti atipici di realizzazione dell'opera che meritano, a mio avviso, di essere presi in considerazione. Si tratta del leasing di opera pubblica e della compravendita di cosa futura. Sempre che non vi siano domande su... No. Nel leasing di opera pubblica con un unico contratto l'ente pubblico commissiona ad un soggetto il compito di realizzare un'opera e di metterla poi a disposizione dell'ente pubblico con un contratto di leasing, quindi con un canone fisso che poi consenta il riscatto a fine rapporto. È stato uno strumento elaborato da taluni enti per realizzare opere pubbliche in un regime sostanzialmente di concessione, ma avendo riguardo non ad opere calde, ma ad opere fredde, cioè ad opere nelle quali non v'era poi un corrispettivo pagato dagli utenti, ma dalla stessa pubblica amministrazione. Esempio, mi costruisci la nuova sede regionale a tue spese, dopodiché tu privato mi concedi in leasing questa sede, io ti pago un canone mensile, dopo 10 anni posso riscattare con il residuo. La autorità per prima ha espresso molteplici perplessità e io mi sono permesso di allegarvi come documento 14 tutti gli interventi compiuti dall'autorità dal 2002 al 2004 con le perplessità manifestate dall'autorità e la limitazione a casi del tutto particolari della possibilità di ricorrere al leasing. Accanto a questa ipotesi è poi maturata quella della compravendita di cose future, di compravendita di cosa futura relativamente all'immobile, cioè si è prospettata l'ipotesi che l'amministrazione, anziché commissionare un appalto, stipulasse un contratto avendo ad oggetto un immobile da realizzare in futuro. E quindi delineando il quadro come una compravendita di cosa futura e non come un appalto. Anche in questo caso la giurisprudenza è intervenuta severamente, il documento è il 16, affermando, citando l'ipotesi dell'autorità, citando una deriva dell'autorità, e affermando che deve ritenersi che il ricorso alla compravendita di cose future costituisce un'ipotesi eccezionale e marginale per l'acquisizione di immobili, dovendo sempre valutare preventivamente la pubblica amministrazione la possibilità di ricorrere alla procedura ordinaria di realizzazione delle opere. E solo ove questo sia impossibile ricorrere alla compravendita di cose future. E quindi limitando significativamente la possibilità. In realtà io ritengo, alla luce della giurisprudenza, che queste figure siano destinate a non trovare significativo spazio, perlomeno nell'esecuzione dei lavori pubblici, almeno nei limiti entro cui siano sottratte alla gara pubblica. Mi spiego. È sempre possibile realizzare un'opera prevedendo che il pagamento sia dilazionato negli anni di utilizzo da parte dell'ente pubblico. L'importante sarà un contratto, sarà un appalto con un pagamento differito. Non è un contratto che, siccome oneroso per l'ente pubblico, possa ritenersi sottratto alla definizione di appalto e quindi sottratto alla normativa materiale. Qui mi ricollego all'accenno fatto all'inizio sulla domanda relativa alle concessioni, in quel caso era della mensa, ma le concessioni invece che hanno ad oggetto le strutture sanitarie. L'edilizia sanitaria sta vivendo un boom negli ultimi anni con intensivo ricorso alla finanza privata. Questo avviene con due modalità. La prima è enfatizzando i servizi a pagamento, in particolare i reparti solventi, per cui il privato realizza il reparto solventi, lo gestisce e si fa pagare dagli utenti la fruizione del reparto solventi. Quindi l'ospedale non investe in questa struttura perché non ha le risorse, lascia l'investimento al privato, lascia la gestione degli aspetti, diciamo così, alberghieri di questi reparti, ottenendone in cambio, dopo un certo numero di anni, un reparto solventi che, finita la concessione, passa a tutti gli effetti all'ospedale, e magari in questo periodo avendone anche dei benefici economici in rapporto alla permanenza. Ma l'altra modalità con cui si sta diffondendo questo sistema invece è proprio quello dell'affitto, cioè il privato realizza con un proprio investimento un reparto, uno o più reparti, e poi che vengono affittati dallo stesso ente concedente. Io non ritengo che questo sia concettualmente una concessione, perché se chi paga non è l'utente, ma è lo stesso committente, siamo in quel rapporto binario tra due soli soggetti, manca la triplicità che caratterizza invece la concessione, e quindi non si possa parlare di concessione. Certo, siamo in un appalto atipico, dove il corrispettivo non viene pagato immediatamente, ma viene dilazionato nel tempo. Ma questo determina semplicemente che il rischio finanziario è maggiore per l'appaltatore e che il corrispettivo risulterà maggiore a sua volta proprio per remunerare questo rischio finanziario. Quindi l'appaltatore sosterrà un investimento di 100 per ricevere non 105 come sarebbe normale, ma 115 tuttavia spalmati in più anni, 120 tuttavia spalmati in più anni. Resta comunque che stiamo parlando di un contratto concluso in forma scritta avente ad oggetto la realizzazione della forma pubblica e oneroso per la stazione committente. Perciò non ritengo che sia corretto qualificare questi interventi come appalti, come concessioni, ma che si tratti invece a tutti gli effetti di appalto e che quindi si dovrebbe applicare la normativa sugli appalti anziché quella sulle concessioni. Vero è che in molti casi si tratti, in taluni casi, non in molti casi, si tratta di contratti misti dove nell'ambito complessivo della struttura si preveda l'affidamento al privato di componenti calde come può essere la mensa, gli spazi comuni commerciali, la parte solventi e così via. Però se andiamo a vedere i bilanci, se non sbaglio l'ospedale Sant'Anna di Como ha fatto un intervento di questo tipo di 108 milioni di euro di investimento dove 96 o 98 sono destinate ad essere remunerati attraverso l'affitto da parte dello stesso ente. Qualificare questo come una concessione e non come un di costruzione e gestione e non come un appalto mi rimane mi pare francamente una forzatura. Va riconosciuto tuttavia che in tutti i casi che mi è capitato di vedere, al di là dell'aspetto terminologico, poi la gran parte delle disposizioni in materia di appalti sono state rispettate. In particolare, trattandosi di interventi di importo molto elevato, dove dunque non v'è l'esclusione automatica dell'offerta anomala, dove dunque è sempre possibile la licitazione privata con il metodo dell'offerta economica economicamente più vantaggiosa, alla fine qualificarle come concessione o qualificarle come appalto rimaneva una questione più concettuale che altro. Tuttavia trovo certamente forzato, dal punto di vista concettuale, e quando si comincia a fare confusione sui concetti non si sa poi dove si finisce nell'applicazione, questa tendenza della prassi a qualificare questi interventi come interventi di concessione anziché come appalto. Tratto qui, perché lo ritengo opportuno, avendo sfiorato l'aspetto del leasing, un corollario che esula dai lavori pubblici e che riguarda il leasing negli servizi pubblici e nelle forniture. Il leasing è un contratto nelle quali, propriamente detto, un contratto atipico, ormai tipizzato, nel quale un soggetto mette a disposizione un altro soggetto un bene di proprietà di terzo a fronte di un canone, quindi non un proprio bene. Nell'ambito dei servizi, delle forniture in particolare, questo contratto è assolutamente frequente. Moltissime imprese private ricorrono al leasing per le automobili, per i macchinari, e quindi è un contratto tipizzato, assolutamente tipizzato. Se vi ricordate, nella definizione di appalti pubblici di fornitura vi è anche il leasing come oggetto della nozione di appalto di fornitura. Quindi qualsiasi bene anche in leasing messo a disposizione. Voglio soffermarmi qui su un aspetto. Vi sono due tipi di contratti che si avvicinano al leasing. L'assistenza numero 15 che vi ho prodotto distingue i due concetti tra leasing operativo e leasing finanziario. Nel leasing operativo il produttore del bene mette a disposizione il proprio bene a fronte di un canone. In realtà questo non è un leasing, questa è una vendita con patto di riscatto o una locazione con patto di riscatto. Il leasing è quello che lì viene definito leasing finanziario, è invece un rapporto con tre soggetti: il produttore del bene, la società di leasing e l'acquirente del bene, il fruitore del bene. Richiamo la vostra attenzione non sulla liceità del contratto, che è assoluta, quanto sulla possibilità che in caso di acquisto in leasing l'amministrazione decida di fare una o due gare. Mi spiego. Una gara potrebbe riguardare il bene da acquistare, quindi le condizioni a cui il produttore mette a disposizione quel determinato bene. L'altra gara le condizioni del leasing, che non sono tutte uguali e che possono variare tra una società e l'altra. Se l'amministrazione decide di fare due gare, saranno due gare in sequenza per l'individuazione del bene, per l'individuazione della società di leasing. Nel caso viceversa faccio una gara sola, sarà una gara nella quale dovranno concorrere necessariamente i nati il soggetto che mette a disposizione il bene, il venditore, e la società di leasing, e a quel punto però si potrebbe concepire una equiparazione tra il leasing finanziario e quello che prima chiamavamo leasing operativo, ovvero il noleggio con patto di riscatto, perché a quel punto l'amministrazione non potrebbe, senza arrecare disparità di trattamento, stabilire che possono concorrere solo due soggetti distinti messi in atti, anziché un unico soggetto che metta a disposizione il proprio bene a fronte di determinate condizioni. Chiudo la parentesi, se non ci sono questioni, sul leasing e tratto l'ultimo argomento della giornata che riguarda gli appalti nei settori esclusi. Con questo, se non sbaglio, chiudiamo la materia degli appalti e delle concessioni e passiamo a parlare di pubblici servizi. Ricordate cosa sono i settori esclusi? Prego. Settori esclusi, cosa sono? Perché si chiamano settori esclusi? Esatto. Esclusi questi che hanno peculiarità tecniche e giuridiche, che sono... Qualcuno lo ricordate? Viabilità no. No. L'ANAS, pubblico trasporto. Esatto. Esatto, perché le strade no, per esempio l'ANAS non è nei settori esclusi. Invece ferroviaria sì, il trasporto pubblico locale sì. Rete di gas, perfetto, sfruttamento del territorio, in Italia non abbiamo granché, insomma, poco che abbiamo. Ci sono due presupposti per cui i soggetti che operano in questi settori non sono sottoposti alla normativa abituale degli appalti, di lavori, servizi e forniture. Il primo è di tipo tecnico. Sono settori che sono caratterizzati da peculiarità tecniche anche in ambito di sicurezza che giustificano la sottrazione di questi soggetti dalla disciplina generale. La seconda è di tipo giuridico e viene purtroppo spesso dimenticata dal nostro legislatore, così introducendo problemi di compatibilità con la normativa comunitaria. tipo giuridico sono settori nei quali vi è una compresenza di privati e soggetti pubblici, enti pubblici che operano, nei quali i privati spesso agiscono in posizione di monopolio in forza di provvedimenti amministrativi e dove la concorrenza è spesso più a livello internazionale, alcuni colossi, che non diffusa. Per queste ragioni si è previsto di, da un lato, assicurare che questi settori vadano nella fase di affidamento del servizio verso una liberalizzazione, e di questo tratteremo nei prossimi incontri. Ma nel contempo si è previsto di non gravare i soggetti che operano in questi settori di procedure così rigide come quelle che sono invece poste a carico dei normali enti pubblici o degli enti che sono soggetti alle direttive in materia di appalti di lavori, servizi e forniture. Questi settori hanno sempre avuto una disciplina unitaria per gli appalti, i servizi e le forniture. I settori ordinari ci sono arrivati solo adesso, invece questi l'hanno sempre avuta dal 90, 93 e ora da direttiva 17 del 2004 che li riguarda. Quello che è importante tenere a mente è che sono soggetti a questa disciplina gli enti che operano in questi settori e per il solo fatto di operare in questi settori. ATM, siccome opera nel settore del trasporto pubblico locale, applica il decreto legislativo 158 del 95, applica la direttiva, applicherà da fine del mese la direttiva 17. Anche per l'acquisto delle matite, se le matite superano l'importo comunitario. Evidentemente, se ATM esce dall'attività dei trasporti e si mette a fare attività di produzione di gomme per cane, quindi esce dal trasporto pubblico e si mette sul mercato a vendere gomme, l'acquisto e la vendita di queste gomme sarà di libero mercato, quindi non è soggetta a questa disciplina. Poi si valuterà se ATM in quanto ente di proprietà pubblica può essere nell'acquisto ritenuto vincolato, ma se queste gomme non sono utilizzate per l'attività del trasporto pubblico locale non è soggetto al 158. Però per tutti i contratti relativi a beni, servizi o lavori che sono in qualche modo impiegati nella propria attività ordinaria, quindi ripeto, le matite, la mensa per gli autisti, l'abbigliamento per gli autisti e così via, si tratta sempre di contratti che sono soggetti alla disciplina del 158-95. Per contro, se il Comune di Milano acquista degli autobus per adibirli al trasporto pubblico locale, al trasporto di studenti, scuola bus, posto che il Comune di Milano non è un soggetto che istituzionalmente opera nel settore del trasporto pubblico locale, sarà obbligato a rispettare le norme ordinarie in materia di appalti, non quelle più semplificate del 158. Quindi se il Comune di Milano acquista scuola bus, applica la normativa sugli appalti di pubblici di forniture, 358 del 92, e la direttiva 18 del 2004. Se ATM acquista scuola bus, applica il 158 del 95 e la direttiva 17 del 2004, relativa ai settori esclusi. se ATM svolge lavori di ristrutturazione delle fermate di metropolitana, applica evidentemente questa direttiva, ma anche i propri depositi, anche la propria sede. Non se, essendo proprietaria, come era proprietaria fino a qualche anno fa, del Ragno d'Oro, locale di aperitivi e serate milanesi, realizza opere di ristrutturazione, evidentemente potrà farlo con modalità private e in assoluta libertà. Il CRAL ATM era proprietario di moltissimi locali a Milano. Quindi spero che vi sia chiaro, è dal punto di vista soggettivo che bisogna valutare se un contratto è sottoposto o no alla disciplina dei settori esclusi, quindi se il soggetto opera o no in quei settori. Attenzione, qui stiamo parlando di appalti, se il comune affida il servizio di trasporto pubblico locale si applica la normativa sul trasporto pubblico locale, che è il decreto legislativo 422 del 97, la legge regionale lombarda numero 22 del 98 e successivi sviluppi. Se il comune istituisce un servizio di scuolabus proprio, che può fare, non è in questo settore. Se Gasplus Italia S.p.A., Gasplus Reti S.p.A., società di distribuzione del gas, 100% privata, ripeto, 100% privata, realizza delle opere di scavo per la posa di nuove condutture di importo superiore alla soglia comunitaria, deve applicare il 158 del 95. Se acquista tubi sopra i 400.000 euro, deve applicare il 158, nonostante sia un soggetto 100% privato. Perché? Perché opera nel settore della distribuzione del gas. Evidentemente, tutte le operazioni di cosiddetta privatizzazione che ci sono state in questi settori, se hanno apportato modifiche gestionali, operative, AM, è uno, AM Milano è uno dei soggetti quotati in borsa che maggiormente ha i fari puntati degli investitori per le iniziative che compie, ma dal punto di vista dell'applicazione della normativa, AM Milano, che opera il servizio della distribuzione del gas, della distribuzione dell'acqua e dell'energia, può essere una municipalizzata, una società al 100% del comune, una società al 20% del comune di Milano, resta comunque assoggettata al decreto legislativo 158 per gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra le rispettive soglie economiche di applicazione. Ho detto, ho accennato al fatto che si tratta di una normativa con molti meno vincoli. La vera peculiarità di questa disciplina è data dal fatto che equipara in tutto e per tutto la procedura negoziata preceduta da bando di gara con la procedura aperta e alla procedura aperta e alla procedura ristretta. In questi settori, a differenza che nei settori ordinari, l'ente può procedere con procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara ogni volta che lo ritenga utile. Questo vale, lo ripeto, lo sottolineo, sia per le parti di lavori sopra sole comunitarie, per le parti di servizi e le parti di forniture. Se vi ricordate, sotto soglia comunitaria, per i lavori che non presentino caratteristiche tipiche di questi settori, questi enti sono soggetti alla legge Merloni, sotto soglia comunitaria. È l'articolo 2,2 e 5 della legge 109/94. Invece per i lavori tipici che sono indicati in un DPCM non sono soggetti a nessuna normativa. Sopra soglia comunitaria invece sono soggetti al 158 del 95 e dalla fine del mese alla direttiva. L'aspetto, torno adesso sulla procedura negoziata. La procedura negoziata si caratterizza, voi sapete, per, sotto due profili. Il primo è che l'ente aggiudicatore può consultare i soggetti che ritenga di individuare. Nel momento in cui noi abbiamo un bando pubblicato, questo significa che l'ente aggiudicatore potrà decidere, una volta acquisite le referenze, e sulla base evidentemente di criteri obiettivi non discriminatori, di consultare 1, 3, 5 tutti i soggetti che abbiano determinati requisiti minimi. Secondo, la libertà delle forme. La procedura negoziata non presenta quelle forme rigide tipiche della procedura aperta e della procedura ristretta. A questo riguardo si pone il problema della procedura negoziata cosiddetta tipizzata, cioè di quella procedura negoziata per la quale l'ente comunque detti una serie di regole procedurali tali da renderla sostanzialmente analoga alla licitazione privata. In questi casi la giurisprudenza tende a equiparare in toto la procedura negoziata procedimentalizzata con la procedura ristretta e in particolare quindi a ritenere come corollario che in queste procedure vigano tutte le regole previste per la procedura ristretta. L'aspetto più delicato di queste procedure riguarda la segretezza delle sedute di gara. Se vi ricordate, uno dei principi generali in materia di gare pubbliche è che la seduta di apertura delle buste contenenti documenti amministrativi e la seduta di apertura delle buste contenenti documenti economici, quindi cioè l'offerta economica, deve avvenire in seduta pubblica a cui partecipa chiunque abbia interesse e ne faccia richiesto o si presenti. Il mancato rispetto di questa formalità rende illegittima tutta la procedura. Su questo la giurisprudenza è assolutamente compatta. Se in una licitazione privata i concorrenti non vengono avvisati di quando avviene l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, la gara è illegittima, quale che sia l'esito, e deve essere ripetuta. Questa regola, si dice, non vale per le procedure negoziate. È celebre la procedura che è stata utilizzata per l'affidamento delle licenze UMTS. Quattro concorrenti, tre licenze disponibili, quattro concorrenti i cui rappresentanti vengono rinchiusi letteralmente in un palazzo, ognuno in una stanza senza contatti con l'esterno se non attraverso un telefono con la propria sede, e il telefono poteva chiamare solo quel numero di quella sede, della sede. E l'asta per le licenze è avvenuta con i rappresentanti del governo che passavano di stanza in stanza per ottenere i rilanci rispetto alle offerte date dall'ultimo dei concorrenti. Alla fine poi Blu, dopo un giorno, si ritirò dall'asta, facendo quindi vincere i tre poi che divennero i titolari delle licenze della MTS, poi espulso la cauzione, ricorso contro l'escussione, eccetera, eccetera. Però la procedura in sé era del tutto legittima. Perché era legittima? Perché le sedute non erano pubbliche, ma perché si era in un contesto di procedura negoziale. Vi sono altri casi meno noti di procedure del tutto affini. Afferma però la giurisprudenza che ove la procedura si svolga con le forme della procedura ristretta, l'amministrazione si autovincola a quei rispetti di trasparenza tra i quali, dai quali discende anche la pubblicità delle sedute di gara, ripeto, relative alla documentazione amministrativa e alla documentazione economica. Peraltro la giurisprudenza, che ha affermato questo principio in generale sulle gare pubbliche, ha introdotto un distinguo proprio con riferimento alle procedure negoziate dei settori esclusi. E questo attraverso un passaggio non linearissimo, non semplicissimo, rifacendosi all'origine dell'obbligo di pubblicità. L'origine dell'obbligo di pubblicità è il principio di trasparenza che vincola le pubbliche amministrazioni. I soggetti che operano nei servizi pubblici, nei settori esclusi, non sono pubbliche amministrazioni, non sono quindi vincolate per quella via al principio di pubblicità e trasparenza. Sono vincolate al rispetto di principi comunitari, tra cui non v'è quello di pubblicità delle sedute, nel momento in cui scelgono di procedere con la procedura negoziata. Ancora recentemente la sentenza numero 18, sia pure en passant, pagina 13, la regola generale della pubblicità della gara con riguardo al momento dell'apertura delle buste è derogata alla prevalente legislazione speciale operante nei settori di questi. Quasi in contemporanea c'è una sentenza della quinta che riguarda invece gli altri settori, dove richiama tutta la giurisprudenza sulla pubblicità delle sedute di gara, richiama il principio per cui nelle procedure negoziate deve comunque rispettarsi il principio di pubblicità quando vi è una procedimentalizzazione, deve quindi portare anche a quello, ma fa riferimento ai settori esclusi dicendo questa regola non vale invece per i settori esclusi dove le caratteristiche soggettive degli enti che operano in quegli ambiti non porta al rispetto del principio della pubblicità delle sedute di gara. Vi sono altre due peculiarità dei settori esclusi, in realtà uno è l'accordo quadro, è già recepito nei settori ordinari, ve ne ho già fatto riferimento a suo tempo, ma ci ritorno ora. Peculiarità sono il sistema di qualificazione e l'accordo quadro. Il sistema di qualificazione è una sorta di albo fornitori. A differenza che nei settori ordinari, nei settori esclusi, gli enti che operano in questi settori possono, anziché pubblicare un bando di gara per una singola gara, pubblicare un avviso con il quale si invita tutti i soggetti che forniscono determinati beni o servizi a manifestare la propria disponibilità a essere contattati se e quando l'ente deciderà di stipulare un contratto. Questo avviso, che evidentemente ha una durata temporale dilatata, consente quindi a tutti gli operatori di un certo settore di far avere le proprie credenziali all'ente e chiedere di essere invitati a qualsiasi procedura che riguardi la fornitura di un bene o di un servizio tipica della propria attività. Quando l'ente si decide all'acquisto per determinate quantità, non fa più un bando di gara, si limita a trasmettere la lettera d'invito, e in questo caso quindi abbiamo una procedura negoziata senza bando di gara, invia semplicemente la lettera d'invito a questi fornitori che ormai fanno parte dell'albo chiamato sistema di qualificazione dal lessico di derivazione comunitaria, e le imprese presenteranno la propria offerta per quella determinata partita. Ove il sistema di qualificazione abbia durato superiore a 3 anni, la pubblicazione deve essere annuale. Se è compresa nei 3 anni, l'avviso è effettuato una volta e non deve essere necessariamente più pubblicato. Ipotesi: ATM pubblica l'avviso per fornitori di indumenti per il personale viaggiante, pubblica l'avviso a dicembre, validità triennale, nei 3 anni successivi ogni acquisto di indumenti potrà avvenire non con un bando di gara, ma con una semplice lettera d'invito ai produttori che hanno fatto domanda. Il fatto che non sia nuovamente pubblicato l'avviso perché la durata è triennale non toglie che comunque qualsiasi soggetto che ritenga di introdursi in questo sistema di qualificazione, se in possesso dei requisiti minimi, possa in qualsiasi momento fare domanda ed essere ammesso. Il che vale a maggior ragione se il sistema di qualificazione ha durata superiore ai 3 anni e quindi vi sia una pubblicazione annuale, almeno annuale. Un'altra peculiarità, ho già detto, è già stata recepita, perché è stata sperimentata con estremo successo in questi ambiti, dalla normativa generale, dalla nuova direttiva 18, ed è rappresentata dall'accordo quadro. L'accordo quadro è quel contratto nel quale, ad esito di una procedura selettiva, quindi una comparazione, un fornitore di beni o servizi si impegna a fornire determinate prestazioni a fronte di un corrispettivo se, quando e in quali quantità l'ente committente deciderà di richiedere. L'esempio del vestiario di cui sopra, anziché fare un sistema di qualificazione e poi fare gare periodicamente, ATM indice una gara per fornitori di camicie e pantaloni. Concorda che le camicie e i pantaloni verranno forniti entro un mese dalla richiesta e a tot euro a capo per i prossimi 2 anni, dopodiché quando servono camicie e pantaloni parte la richiesta e la richiesta viene esaudita alle condizioni stabilite dalla unica gara che viene fatta per tutto il periodo. È sostanzialmente un contratto di somministrazione. Nei settori ordinari, forse ricorderete, ho accennato a contratti di questo tipo quando parlavo dei contratti Consip, delle condizioni Consip, delle centrali uniche di acquisto. Consip svolgeva proprio questa funzione, indiceva gare per l'acquisto di cancelleria. Partecipavano i produttori di cancelleria che si vincolavano ad un listino prezzi, ma queste gare avevano ad oggetto non una fornitura a Consip, bensì una fornitura a tutti gli enti convenzionati Consip per le quantità che decidessero via via di chiedere a chi vinceva la gara, che a quel punto era vincolato ai prezzi con i quali si era aggiudicata la gara stessa. Nei settori esclusi, in particolare, ma in altri ambiti, si è posto recentemente il problema della concessione. Cioè, se l'ente che opera nei settori esclusi, anziché procedere con appalto, possa concedere, ad esempio, la costruzione e gestione di un'opera. Alla questione si tende a dare risposte più articolate, più varie. Credo che non si possa prescindere dal presupposto per cui l'articolo 19 della legge 109 del 94 ammette, contempla la concessione solo se rilasciata da una pubblica amministrazione. Articolo 19,2 della legge Merloni, le concessioni ai lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice. Le amministrazioni aggiudicatrici sono le pubbliche amministrazioni, non vi rientrano i soggetti operanti nei settori esclusi. Da questo si è fatto derivare, a seconda delle interpretazioni, una duplice conseguenza. Per taluni questo significa che non è possibile l'affidamento in concessione di costruzione e gestione da parte di questi soggetti. Quindi, per intenderci, ATM non potrebbe affidare a terzi la concessione di costruzione e gestione di una linea metropolitana, nuova linea metropolitana, tale essendo una prerogativa riservata all'ente pubblico, quindi al comune. Altri invece ne hanno dedotto che la conseguenza è solo che non si applica quindi la disciplina di quella legge 109 del 94, non trattandosi dunque di concessione. Se vi ricordate, esempi di questo tipo ne ho già fatti con riferimento alla concessione di spazi pubblicitari sulle pensiline di fermata. Vi dicevo, c'è chi dice che si tratta di una concessione di pubblico servizio e quindi deve essere soggetta alla disciplina sull'affidamento, e chi invece ritiene che non può qualificarsi come concessione perché non c'è un ente pubblico concedente. Non ho, come vi dissi, non ho possibilità di darvi una risposta definitiva. Va detto che il Consiglio di Stato a dicembre ha respinto il ricorso riguardante proprio la concessione degli spazi pubblicitari, facendo specifico riferimento, in una succinta ordinanza, alla natura peculiare del contratto oggetto della procedura. Quindi, apparentemente avvallando la tesi per cui si tratta di un contratto atipico, non soggetto alla disciplina degli appalti né a quella delle concessioni di pubblico servizio. Differirei però questa ipotesi di concessione di spazi pubblicitari, dove obiettivamente non riesco a ravvisare un pubblico servizio, ma una mera attività commerciale da sfruttare, rispetto alla concessione che invece sia parte di un più generale pubblico servizio, come è l'ipotesi della concessione di costruzione e gestione della metropolitana piuttosto che della linea tranviaria di superficie. In quel caso, infatti, non può trascurarsi l'aspetto che il soggetto opera nel settore escluso come titolare della concessione in Milano in forza di un atto amministrativo. Se decide di far realizzare un'opera inerente al suo proprio settore, sta di fatto subconcedendo una parte delle proprie prerogative. Non è come l'affidare allo sfruttamento pubblicitario, perché non è che APM o Italfer o Trenitalia sia concessionaria pubblica dello sfruttamento pubblicitario sulla rete ferroviaria, no, è concessionaria del sistema di trasporto, dopodiché se riesce a guadagnare con la pubblicità è come il condominio che mette a disposizione la parete cieca e ci guadagna, è uno sfruttamento commerciale. Se invece affida a terzi la linea tranviaria, allora sta subconcedendo una parte della propria concessione e allora sì che secondo me si pone proprio un problema di ammissibilità, che andrà valutata forse più che sulla base della legge 109, andrà valutata guardando il contratto di concessione tra comune e ente titolare del pubblico servizio. Se questo contratto ammette l'affidamento a terzi, allora potremmo considerarlo ammissibile e allora potremmo forse ritenerlo assoggettato alle stesse regole dell'affidamento di lavori a terzi da parte dell'ente che opera nel pubblico servizio. Altrimenti ho delle perplessità di ammissibilità tu cure e quindi non di applicazione della normativa, ma proprio di ammissibilità del contratto. Se non ci sono domande, con una decina di minuti di anticipo avrei concluso. Vi segnalo solo che non ho fatto il tempo a farne copie perché mi è arrivato oggi il numero. Sull'ultimo numero di contratti dello Stato degli enti pubblici, ripeto, mi è arrivato oggi, numero ottobre-dicembre 2005, c'è un articolo proprio sul project financing delle opere pubbliche che, come al solito, sbaglia, secondo me, l'impostazione terminologica, ma che è uno spaccato in particolare su la parte centrale, sullo spaccato di giurisprudenza in materia di promozione di opere pubbliche, requisiti del promotore e poi la società di progetto con i vari aspetti sulla società di progetto, per cui vi segnalo che c'è questo articolo che potete agevolmente reperire. Se non ci sono domande, buona serata a tutti. Thank you.